Ah, ah, ah. Cerco dolore. Ne ho bisogno. Anche uno piccolo. Io non sento niente. Io non sento niente. Ah, ah, ah. Ho bisogno di dolore. Io non provo niente. Chi sei? Chi sei tu? Non tuo. Non tuo, che non mi preme, non mi tocca. Non ce la faccio. Non ce la faccio, io non sento niente. Ho perso tutto. In una notte. È esploso tutto in una notte. Ho perso la porta. Sono chiusa in trappola e ho una finestra per guardare fuori. Vedo quello che passa. Vedo quello che dicono. Da qui vedo quello che vedo. Niente di più e niente di meno di quello che mi lasciano vedere. Ho venduto il panorama di dentro a poco prezzo. Tutto quello che ho non l'ho più. Voi udrete con le orecchie, ma non intenderete. Voi vedrete con gli occhi, ma non comprenderete, hanno detto. Poiché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, hanno indurito le orecchie, hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi e non sentire con le orecchie. Fermo. Fermo. C'è qualcuno. Non divideranno con te. Sono affamati. Non avrai abbastanza carne per sopravvivere. Senza saperlo, senza volerlo, sarai contagiato. Quanto ti ho amato. Mi si spezza il cuore. Cercavo di resistere. Io cercavo di resistere e ho perso tutto. Qui non entra mai nessuno. Qui chi entra non esce, è diverso. Qui catturano tutti. Tutti sono stati contagiati, la polvere. I pochi che ancora resistono non sono immuni. Qui non entra mai nessuno. Qui chi entra non esce, è diverso. Comprano, vendono, scattano, prendono. Prendete e mangiatene tutti. Chi c'è? Acceso e spento dovevamo tenere. Ma non stacca, non stacca, non stacca! Mamma! Mamma! Mamma! Scendi giù! Scendi giù! Mamma! Mamma! Scendi giù! Qui non entra mai nessuno. Qui chi entra non esce, è diverso. Mamma, scendi giù. Ma che stai a dì? Chi gliel'ha detto? A me mi devono fare una santa cortesia da nacquore da un'altra parte perché mi stanno a far mangiare grasso del cuore. Mamma, che ore sono? Mamma, scendi giù. Qui non entra mai nessuno. Qui chi entra non esce, è diverso. Quante volte te l'ho detto io, eh? Quante volte te l'ho detto? La macchina è in doppia fila davanti a casa mia. Tu non ce la devi mettere, perché questa è casa mia. Donne, donne! Mi si spezza il cuore. Scusa, scusa, scusa. Scusa, lo so. Lo so che tu sei una brava persona, che queste cose tu non le fai. Me lo fai un favore? Me lo fai un favore? Quando moro non me mette sottoterra. Au! A me li vermi me fanno impressione. Mettimi un posto là, per l'aria. Io lo so che c'hai tanto da fa. Mamma, ti ricordi? No, io non vi accompagno domani mattina. Io non marzo, perché m'avete rotto li coglioni! Mi si spezza il cuore. Io devo guardare la polvere tutto il giorno. Non lo capisci? Non lo capisci? Quante stelle. Dio del cielo, quante stelle. E Dio disse: Madonna, Cristo è figlio tuo. Cercavo di resistere. Cercavo di resistere. Era come un'onda anomala, come uno tsunami, come un'onda anomala e malata. Ti sei abbattuto su di me come un'onda anomala, senza sale. Senza sale, senza sale avete voluto operare per salvare un reattore e il mondo va in fiamme, il mondo va in fiamme all'inferno. Mi si spezza il cuore, devo resistere. tutta insanguinata. Madonna, ho detto. E che t'è successo? Il caldo, lo sbalzo di pressione, il dolore, lo spavento che mi pigliai. Senti un po', scusa, senti. È tutto il giorno che smuovono le foglie, m'è parso. Madonna, e che è successo? Qui tutto va in rovina. C'ho i denti frascicati, i capelli consunti e le ossa stanche de sto sole che non esce. Me lo dici dove trovo? Chi c'è ancora qui? Chi c'è rimasto? Chi c'è ancora? Chi c'è rimasto? Buonasera. Buonasera. Chi sei tu? Chi sei tu? Tu? No. No, no, Madonna, no. No. No, te no, non può essere, no. Perché non rispondi? Tu no. Tu no, tu questo no, tu lì no. E che farai? Che farai? Lo prenderai tu? Perché non rispondi? Chi me t'ha preso lì dentro conficcato? Vai via! Vai via, vai via! C'è il diavolo lì dentro, esci! Vai via, c'è il demonio! Scappa, vai via! Tu non c'entri, tu sei mio! Scappa, vai via! Tu no, tu lì no! Vai via! Siamo andati anche noi, e certo, siamo andati lì, e subito siamo andati, siamo arrivati prima del Presidente della Repubblica, e beh, senta, sono stati tempi, come glielo dico, era, e beh, siamo andati, io me posso solo ricordare, e beh, siamo andati a vedere quello che era successo, era uno di quei fatti che non si poteva restare a casa immobili al tempo, noi dovevamo andare, correre, essere presenti, pronti, che se serviva... Voglio dire, noi d'esperienze ce ne avevamo diverse, magari non in quel campo lì, però se serviva qualcosa che serviva, bisognava andare a vedere. E siamo partite, io mi ricordo, siamo partite, io ero a Roma da poco tempo. No, le strade non ero pratica delle strade della città, ma quando ho visto che c'era il mare di macchine che si incanalava tutto sulla via, come si chiama? La via Tuscolana, sì, che si andava anche al Tuscolo, ma quella volta lì ci si fermava a Vermicino, hai capito? E certo, e siamo arrivati in questo posto che le posso dire, visto alla televisione sembrava uno di quei posti da stadio, da concerto, ma era un fazzoletto di terra, e dove siamo arrivati c'era un caldo, sì, hai voglia a tirare giù i finestrini, all'epoca lì c'era la manovella, ma se stava nelle macchine come nelle gabbie. Poi arrivati, io mi ricordo dopo, abbiamo fatto la fila, se doveva fare quella, e c'è stava la gente del posto, quelli che abitano lì, dice, qua ormai c'è stata tanta confusione, qui noi la gente ci abitiamo, e vabbè, e se vede che ci abita la gente, ma... Quando arriva la televisione, io penso che è sempre stato e sempre così, e che ci arriva la confusione quando arriva la televisione. No, ma noi siamo presi e scappati al volo, messo su quello che c'era, un vestitino, una cosa. Era il 12 di giugno del 1981. Io stavo preparando, in quel tempo lì si preparava il pranzo, era l'ora di pranzo, e via subito, scappati, ma fortuna dopo, No, e io dicevo però, no, e lei mi fa confondere. E deve avere pazienza, no, io questo, no, senta, guardi, no, ma mi mette pure in difficoltà, ma riprendo. Allora dice, ci facciamo una limonata. E ci beviamo la limonata, ci facciamo una limonata, prendiamo, ci rinfreschiamo un pochino, c'è stava un'afa, un caldo, era una di quelle estati caldissime che era state, ma poi c'è venuto un certo appetito, mica si poteva far ragù, e ci siamo prese un panino, ci siamo prese un panino... E io mi ricordo che come abbiamo preso un panino, tu più sta e più saliva i prezzi. Ma dico scusi, ma qui che siamo tedeschi noi? Ma mica siamo stranieri che più sta più aumenta i prezzi e come la Fontana dei Trevi. Oh, e qui c'è una disgrazia. E però bisognava mangiare qualcosa, se no sotto quel cardo si andava giù come le pere, eh. No, dice, certo, siamo andati perché era ecco ecco. E poi, la televisione di allora era una televisione buona, che se ti diceva ecco ecco, allora era vero che ecco ecco, no che ecco ecco, ecco ecco, ecco ecco come mo, ecco ecco. E allora subito siamo corsi, ma ecco ecco, ecco ecco, ecco ecco. Arriva il buio, è stata sera e siamo dovute tornare a casa, ci stava ancora mamma con me, io mi ricordo, cascavano come la pere la gente per tutto il sole che ci stava, non ci stava neanche come, che ti posso dire, come te lo spiego, una tendina, una cosa per mettere sotto, per coprire la testa, che stavano tutti a lavorare, ci stava i vigili urbani, c'era il mondo. Siamo arrivati che c'era il mondo intero, c'era anche la televisione americana, perché quello era un caso che era andato nel mondo e la diretta era partita, c'è stata una lunga diretta, io non so se questo lei se lo ricorda, ma è stata la più lunga diretta della storia della televisione italiana, hai capito? Mica... Sì. Sono stati momenti brutti, dai. Sono stati momenti che... E l'ultima volta che era stato così era stato per la scoperta della luna. E siamo tornate a casa da quella giornata lì, faticosa, pesante. C'era ancora, si seguiva al TG e abbiamo preparato una minestra, una roba per mangiare qualcosa, ci siamo dette... Oh, erano anni duri, eh? Erano gli anni della B2. Eravamo un popolo squassato, eravamo un popolo consumato. C'era stato da poco che si era saputo che c'era sta B2, che... Era stata un'organizzazione come glielo spiego, massonica. Se stavano tutti a rivoluzionare per paese, c'estavano le Brigate Rosse quella volta lì. E era proprio quel giorno che c'era stato il rapimento di quello, del fratello del brigatista, il signor Peci. C'era stato che avevano poco prima sparato al Papa, il terremoto all'Irpinia un po' dei mesi prima. Che era? Che la protezione civile. Non c'era stata il terremoto e sono morte migliaia... Più di 2000 persone quella volta lì, ma io questa cosa qui me la ricordo di più. Me la ricordo di più perché era uno e noi stavamo tutti lì, tutti a sperare, tutti a aspettare, tutti uniti, era come un popolo unito. Ma poi è arrivata la sera, abbiamo mangiato, cenato e ci siamo dette, abbiamo aspettato in piedi tutta la notte sveglie e me lo ricordo, cascavo in piedi dove mi sbatteva a destra, a sinistra, cadevo, mi giravo, non so, me si portava il sonno e poi è stato quello che è stato. Quello che tutti sappiamo non ci si è fatta. Dice abbiamo sperato, abbiamo lottato e chissà che ci dovremmo ricordare noi di sta storia. Che cosa dovremmo amare di sta storia, cosa dobbiamo odiare. E poi te dico io che siccome per Vermicino non c'è stato nessun colpevole, ci sono stati dei processi, ma nessun condannato. Questo, in qualche modo, a noi dentro, ci ha reso colpevoli tutti. Tutti ci sembrava che potevamo fa qualcosa, renderci utile. Non c'era, come te lo posso dire, come per altre storie che ho visto alla televisione, non c'era un colpevole o dei colpevoli, sì, ne hanno additati tanti, ma il capo dei vigili del fuoco che si era preso la direzione del soccorso... La protezione civile, lo Stato che non c'era, la tecnologia che non ne arrivò abbastanza, quelli che avevano fatto la buca, lo sterato per farsi la casa abusiva, il pozzarolo che scavò il pozzo abusivo, chi non lo coprì, chi tentò e non riuscì, ma rischiò la pelle sua però. La confusione che avevamo fatto noi là, andando sul posto, la pressione della televisione, come si dice, quella lì, la pressione mediatica, dice... Oh, c'è tanti che seguono da qua, da casa, quasi 30 milioni di telespettatori e 20.000 fisicamente lì, presenti a Vermicino su quel pezzetto di terra. E ci siamo caduti tutti in questa storia. E è per questo che io me la ricordo. Sono state 60 ore di lotta, poi lo spettacolo è finito. Non posso smettere. Non posso smettere. Vedo i tuoi occhi piantati, tormentati, Insanguinati, non posso smettere. Scendi, scendi, scendi giù. Mostrami la faccia. Fammi vedere, dai. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere i denti. Fammi vedere il cuore, ti prego, fammi vedere ancora, ancora. Non posso smettere, non lasciarmi andare. Non posso smettere, non posso smettere. Io sono un essere umano. Umano! Non sono un elefante. Io sono felice ogni ora del giorno. Anche se dovessi sapere di morire domani. La mia vita è bella. La mia vita è bella perché so di essere amato. La mia vita è bella, grazie! Che cos'è che mi emoziona? Che cos'è che mi devasta? Se mi addormento, mi allungo, mi metto giù, io lo so, non mi risveglio. Giù, giù, qui, qui tutto profuma, è morbido. Scendo ancora un po', io lo so, non mi risveglio. Guardo il tuo ritratto come ultima cosa. So che mi stai guardando. È la prima volta che guardo in alto da qua giù. Quante stelle piovono tutte in una notte. Mai. Oh mai, niente morirà mai. Il vento soffia, l'acqua scorre, la nuvola fugge, niente muore, vero? Niente muore. Fermo. Fermo. Fermo. Fermo. Fermo. Me butto. Hai acceso il telefonino? Il telefonino! Hai acceso il telefonino, Cristo! Meglio nuda? A dici meglio nuda fa più effetto, eh? Sono usciti tutti. Volevi correre e mostrare quanto fossi venuta bella in quell'acqua tra le viole e l'erba chiara. Accendi il fuoco. Scende la luce, non mi vedrai più tra poco. Mi sono stesa più volte sul pelo di quell'acqua chiara. Ero tranquilla quando vedevo il cielo cambiare colore. Mi passava addosso un po' di fresco. Quella è l'orsa minore. Quando si vede è buon segno. Venere, martedì è il giorno più bello dell'anno per me. No, no, non faceva così. Quante stelle. Dio del cielo, quante stelle. Devo stare ferma, scusa, scusa. Non mi muoverò più. Non pensavo volessi ritrarre proprio me. Quando mi hai posto chiusa in una tela, ho ascoltato senza cambiare mai espressione. La stessa luce riflessa negli occhi che avevi dipinto dai miei ancora vivi. Li ho visti ubriacarsi, fare l'amore, restare svegli tutta la notte. Poi si è fatto buio. È passato più di un secolo, millenni. Ci sono i corvi qui con me. Ci sono gli avvoltoi. Li vedo. Mangiano carogne. Interiora, budella, anima, testa. Io li nutro in gabbia e li vedo crescere, gonfiare la scatola, spaccare il vetro. Li vedo grossi, in erezione, pronti. E io li nutro, li guardo. E loro crescono, si moltiplicano, crescono. Ma io non mi lamento. Mangio e zitta. Zitta, muta e contenta. A chi tocca, tocca. Quella notte stavamo tutti lì raccolti, ma chiamarono zia Rosa. La chiamarono che lo trovarono impiccato a 15 anni. L'immagine di Peppino impiccato a quell'ulivo, io la vedo come fosse la macchina bianca di papà o la bisnonna Filomena dell'Ottocento, eppure non credo di avere mai visto una foto in bianco e nero di Peppino appeso all'albero. La chiamarono Curren, stavano gli carabinieri, e è successo qualcosa a figlio, però. Oi, ro, madonna, ro, cur, ro, s'affannata gli mun, ro, oi, ro, cur, ro, cur, curata gli live, s'affannata gli mun, cura, madonna, ro, cur, è successo gli fine mun, Peppino, gli olivi, zia corre, arriva e stavano i carabinieri, ma lei è la mamma e deve passare, ma stanno tutte le persone, ma lei deve passare, tutti che la fermano, che la tengono forte, lei strilla senza voce nella foto mia, e lui Peppino è lì, e non scende solo. Vi pre, pigliatemi a me. Spaccatemi a me, tagliatemi a me, inchiodatemi a me, fatelo a me, levatemi dal mondo a me, rompetemi le ossa tutte, rompetemi le pezzo, staccami i denti sveglia, l'ho visto alla televisione, che ti staccano i denti sveglia e poi non capisci più niente, Le dita staccamele, falle mangiare ai cani le mani mie. Fatemi tutto. Strappatemi tutta la pelle, strappatemela tutta, staccatemi il cuore. Spezzatemi la schiena. Passatemi sopra. Con le mazze, coi piedi, coi carri armati, crollatemi dentro. Ma fatelo a me. Io l'ho fatto. Lo hai capito? Io l'ho fatto. Io l'ho cantato. Io l'ho allevato. Io l'ho fatto. Staccalo per pietà. Attaccami a me. Aspetto io qui i carabinieri. Non si può. E se deve fare l'indagine, sogno. Sera per me, io ce li staccava subito, figlia. Ma è la regola, sogno. Lasciacela ora, essi buona, portatevela a casa. E zia non va a casa. Arriva un'altra guardia che glielo fa spiccare quel figlio, ma non fa in tempo a dire che sì, che dovevano metterlo giù, che lei lo tira giù. Peppino, che aveva 15 anni. Ho visto una foto sua vivo, era bello. Questa Rosa aveva un cuore grande e quando è morta ho sentito dire che aveva finito di tribulà. E rideva, ma a bocca chiusa. Alla gente povera non ci piace di ridere a bocca aperta, che o ci pare brutto, o che non possono ridere, o che i denti sono frascicati, o che sono storti, o che ci hanno preso troppe botte quando ridevano, e magari se la risata è contenuta forse uno fa prima a ritrattare. Zia Rosa aveva la pancia grossa e c'è morta con la pancia grossa, sembrava una sposetta incinta di pochi mesi, bella, di cera, piccola. E se avesse potuto avrebbe ripartorito Peppino. E forse cercava quella di morte, con la pancia grossa. Che se moriva c'era posto per quello di figlio. Ma è morta sola. Lasciami stare. Fammi entrare. Dammi aria. Latte. Sale, mamma. Lasciami andare. Fammi entrare. Stammi addosso, Sotto, da sotto. Mamma, non mi lascia respirare. Se si gira non vuole il taglio. Lasciami il tempo. Il tempo che ho, il primo. Mamma, lasciami nascere come so, che già sono nato. E tu sei morta, io ti vedo bianca. Che pari una sposa piccola, mamma. Lasciami andare. Non posso rifarlo. Lasciami andare. Il primo giorno non capisci niente. Ti alzi, cadi e sbatti la faccia. Scendi giù e arrivano tutti, tutti che ti baciano, che ti attaccano la faccia. Il secondo giorno ancora scendi giù e trovi tutti, tutti lì che ti salutano. Senza zucchero non ce la fai, sta girando tutto, fermatelo per favore. Se nessuno l'ha deciso, l'ha detto, tocca a te scegliere. Scegli tu, scegli la collana, le scarpe, quello è il vestito preferito, te lo ricordi? Quelle voci tornano, arriva il colpo e non lo posso fermare, il terzo giorno devi mangiare qualcosa. Altrimenti non ce la fai, dai, mangia qualcosa, vedrai che il tempo ti viene incontro, vedrai che il tempo ti aiuta, vedrai, lo so, ma poi è tutto passato. Ti alzi dal letto, metti un piede davanti all'altro, il pavimento è freddo, torni a sedere, giri il collo, tiri su di nuovo il corpo, scricciolo, carcassa. Ci sono ancora tutti, E tu stai lì e non vedi il detersivo migliore, il sorriso più bianco. Quella pelle ti è rimasta attaccata addosso. Te la trovi attaccata addosso, ma non è pelle tua. Non è pelle tua. Era un blackout da guerra mondiale. Mai in tempo di pace era capitata una cosa così. Si scusavano per l'interruzione. E io ne avevo avute tante di interruzioni. Che diceva, e qua, quella non è buona di testa. No, quella non è buona, lo vedi? Quella non è buona di testa. Sente le voci, te l'avevo detto io che quella non è buona di testa. Ma io il blackout l'avevo sentito. Diceva che era la guerra che stava arrivando, il terremoto. Ma io lo sapevo che era peggio. Era successo quello che mai era successo, che di guerre ce n'erano state tante, di terremoti pure, che sempre, sempre era sveglio e attento lassù, che se la fuma la luna, questa notte che speriamo che non ci lascia soli. Io il blackout l'avevo sentito, la guerra mondiale che stava arrivando, il terremoto, io lo sapevo che era peggio. Era successo quello che mai era successo. La terra che trema, le rocce che si schiantano, le trombe che si aprono, i corpi dei santi che resuscitano. Ma io lo sapevo che era peggio. Stava passando tutto. E il dolore scompare. Gli incubi si tappano la bocca. Non ci sentirai gridare. Se potessi uscire un attimo all'aria. Credi basti una sentenza a condannare l'universo intero alla follia? Non riesci a vedere? Non riesci a vedere? Ma certo, io sono responsabile. Figliolo, non sono suo figlio. Vai via! Credi di essere uscito dal tunnel, ma subito ti riafferrano. Ti riagganciano nel buio appena illuminato e la musica torna. La risenti, è sempre la stessa. La giustizia è velata da un immenso lenzuolo. Ti portano nel nulla, dove sei gettato in una fossa rocciosa. Vi riponi i tuoi indumenti e ti denudi, costruendo a terra un fantoccio accartocciato che ancora un poco ti somiglia. Tornano. Ti scoprono nei tuoi stracci posti ora sotto il capo. Sei vivo ancora nel sepolcro. Estraggono un'arma da cucina. Vi aspettate che vi strappi il coltello e mi uccida da solo? Intanto loro voltano le spalle. Voi dovete ammazzarmi! Voi miserabili! È compito vostro! Tocca a voi! Perché mi hai abbandonato? Non lasciarmi. Fammi sentire ancora un po'. Voglio sentire ancora un po'. Fammi sentire ancora un po'. Voglio sentire ancora un po'. Fammi sentire ancora un po'. Avevi deciso che ero io. Eppure non ci avevo più il fiato. Sapevo che l'avrei perso. E me lo so tenuto. Mi sono presentata così com'ero. Oh, c'avevo a me. E lui non l'avrei lasciato. Mai tinto e disegnata. Se battevano il petto con le ginocchia rotte a me che mai mi avrebbero inchinato, sbattuto la faccia al muro, forse sì, strappati i capelli e rotte l'ossa. Stretti, noi stavamo stretti e io me lo tenevo come un segreto. A chi lo lascio io, mo? Perché m'hai fatto sola? Chi so questi qua intorno? Io mai l'ho visti e questi mo me baciano, se muovono, me guardano come tanti tordi ammutoliti, però mo... Signora, sì signora, signora mia signora, alleluia, è troppa gloria, fammi la grazia e noi te lucidamo tutta, te pure improfumamo a me che mai m'avrebbero manco guardato. Io me lo sarei tenuto dentro se non spingeva a forza, ma non potevo farci niente se i giorni passavano. Mo è finito tutto e sono rimasta pure appesa. Mi ricorderanno per quello che non ero, ma tanto, ma che ne sanno dei dolori che ci ho avuto? Ma è ripescata gonfia e trascinata. Grazie per l'immortalità che m'hai concesso. avrebbe più scaldato una carezza tua l'attimo prima. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Sarà perché ti amo, io canto al ritmo. E se sei magro, non dirmi che non vorresti essere più magro, giovane, amo, tonico, senza neanche un filo di quella parte che nascondi. Niente più rughe. Addio al colorito spento, a quel tremendo senso di pesantezza. Basta coi problemi di etichetta. La situazione è grave davvero, anche se non sembra, perché abbiamo dentro una bomba d'orologeria pronta a esplodere e distruggerci quando meno ce l'aspettiamo. Ma pensate di essere eterni? No, ma c'è un modo per arrivare in maniera dignitosa. Ma che dico, più che dignitosa, all'età della vecchiaia, alla fase di accelerazione del deperimento organico. La diffusione di questa cultura garantisce maggior benessere e salute senza dover rinunciare al gusto della buona tavola e all'abbondanza. Un'alimentazione aglicidica consente un'alimentazione iperlipidica. Mangiare e dimagrire. Utilizzare l'alimentazione per dimagrire. Quando si ha fame, purtroppo, non si riesce mai a resistere. Nessun sacrificio. Avete capito bene? Con noi dovrete mangiare ogni volta che avrete fame, senza limiti di quantità, prodotti dall'aspetto simile agli altri. Mangiare per sentirci sazi finalmente e pieni, e per soddisfare le proprie emozioni. E allora mangia e godi e dimagrisci e diventi magro, diventi bello, diventi sciolto e diventi tonico e sei quello che sembri, e diventi magro e diventi bello e diventi tonico e sei quello che sembri e diventi magro, diventi bello, diventi tonico. Mangia e allora mangia e godi e sei quello che sembri e sei quello che sembri. Ci sono giorni in cui cadono le foglie, non puoi farci niente. Ci sono giorni in cui cadono le foglie, non puoi farci niente. Sto diventando una persona gentile, non me l'aspettavo. Ci sono giorni in cui cadono le foglie e non puoi farci niente. Sto diventando una persona gentile, non me l'aspettavo.